9 in punto. La politica nel tunnel. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano di dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Buongiorno cari cari ascoltatrici e cari ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a 9 in punto. La puntata di oggi è una puntata, se vogliamo, di transizione. Perché? Perché aspettiamo naturalmente dal punto di vista politico le parole del Presidente della Repubblica, che scioglierà la riserva su questa sera su a chi assegnare il mandato. Probabilmente Bersani, bisognerà vedere che tipo di mandato, se sarà un mandato esplorativo oppure no. Improbabile che sia il cosiddetto mandato pieno, perché insomma oggettivamente i numeri in Parlamento non ce l'ha, anche perché il Movimento 5 Stelle resta fermo sulle sue posizioni. Dice in sostanza che Napolitano deve assegnare l'incarico a loro di formare un nuovo governo. E in alternativa c'è un po' di gioco di figurine qua, come dice il nostro ascoltatore, dobbiamo dirlo ai deputati e senatori, senza cattiveria, ai deputati e senatori del Movimento 5 Stelle, insomma, perché poi andar là dopo le consultazioni e dire, insomma, incarico a noi, in alternativa, perché questa poi è la sostanza, la presidenza del Copasir e quella della Vigilanza Rai, perché siamo il principale partito d'opposizione, è un po' giocare con le figurine, anche se insomma queste due cariche teoricamente spettano appunto al principale partito di opposizione. Una giornata di transizione perché ci sono anche tanti altri elementi in ballo in queste ore. La vicenda, la decisione del governo di ieri di sbloccare i soldi per le imprese, i soldi che la pubblica amministrazione deve alle imprese, in tutto 40 miliardi, 20 quest'anno e 20 l'anno prossimo. Questo naturalmente andando ad incidere sul deficit dello Stato, ma soprattutto, devo dire la verità, questa è una notizia importante. Le reazioni sono contrastanti, nel senso che ci sono alcuni che dicono, che esprimono soddisfazione, altri che dicono insomma troppo poco, troppo tardi, tempi troppo lunghi. Forse una riflessione va fatta sulla revisione al ribasso di questa stima del prodotto interno lordo, dallo 0,2% di settembre all'1,3% previsto adesso, quindi aggiornata nel giro di 6 mesi di un 1,1%. Quindi l'ipotesi che tutto questo, mescolato probabilmente anche con, vedremo come andrà a finire a Cipro, però un probabile innalzamento dello spread potrebbe condurre, ma non è da oggi che si dice, potrebbe condurre ad una nuova manovra oppure ad una manovra più pesante. E nel frattempo ieri la vicenda dei due Marò, quindi puntata di transizione. Tra poco ascolteremo anche un'intervista che abbiamo realizzato 10 minuti fa con il sottosegretario agli esteri Staffan de Mistura, che è in viaggio con i due Marò appunto, abbiamo beccato proprio in transito da Delhi, ci siamo fatti raccontare un po' di cose, tra poco l'ascolteremo. Nel frattempo la trovate o la dovreste trovare a brevissimo sul nostro sito www.radio24.it. Iniziamo da Lina Palmerini, collega del Sole 24 Ore. Buongiorno Lina. Buongiorno, ciao Simone. Allora, che cosa dobbiamo aspettarci da questa giornata? Ma dobbiamo dal punto di vista politico, dico naturalmente. Sì, certo. Dobbiamo aspettarci il Presidente della Repubblica che si dice nel primo pomeriggio probabilmente affiderà l'incarico a Pierluigi Bersani. Tu prima parlavi di un incarico che non sarà pieno, sicuramente no, sarà un incarico, insomma già sui giornali di oggi c'è chi l'ha chiamato un incarico con dei paletti molto rigidi o un incarico condizionato. Di certo non può essere un incarico pieno perché al momento Bersani non ha le condizioni politiche per formare un governo, nel senso che dalle consultazioni che sono finite ieri non si è allargato il recinto dei suoi numeri, quindi al Senato resta comunque in minoranza, partito di maggioranza, coalizione di maggioranza relativa, ma comunque senza la maggioranza al Senato. Per cui verosimilmente Napolitano chiederà a Bersani di trovare numeri parlamentari sufficienti, quindi una maggioranza, e gli chiederà anche di coagulare consensi su alcuni obiettivi che sono venuti fuori dalle consultazioni, quindi riforme istituzionali, in particolare la legge elettorale, e obiettivi anche economici. Uno di questi ne parlavi te poco fa, cioè il problema dei crediti delle imprese della pubblica amministrazione. Lina, ti chiedo il vaticinio, secondo te però come andrà a finire adesso oggettivamente? Guarda, insomma, al di là del... il capo dello Stato non può far altro, insomma, ieri questo trapelava dal Quirinale, non può far altro che affidare l'incarico a Bersani, perché Bersani gliel'ha chiesto, e comunque perché dalle consultazioni non è venuto fuori un progetto alternativo, una maggioranza alternativa, un nome alternativo. Quindi Bersani, come capo della coalizione di maggioranza assoluta alla Camera e di maggioranza relativa al Senato, nel momento in cui chiede l'incarico, naturalmente Napolitano si trova nelle condizioni di darglielo, sia pure con i limiti e i paletti di cui ti ho parlato. Come andrà a finire è veramente, insomma, essere ottimisti è un po' difficile, perché Grillo ha chiuso la porta, come hai ricordato tu, in maniera molto netta. I problemi con il PDL li conosciamo, è il PD per primo che ha posto una, come dire, convention ad excludendum nei confronti di Berlusconi. Quindi adesso dovrà gestire questo passaggio che è strettissimo, quindi cercare sì l'appoggio del PDL, ma in che modo? In realtà proprio tutte queste difficoltà lasciano pensare, lasciano forse anche spazio a un po' di malizia, ossia che Bersani abbia deciso comunque di chiedere l'incarico più per ragioni, diciamo, interne del suo partito, un partito che sta mostrando delle crepe anche nella votazione sul capogruppo alla Camera, insomma, si è un po' spaccato. Quindi cioè è l'unico lo fa modo più per ragioni interne che non per, diciamo, perché convinto del successo. È l'unico modo per tenerli insieme in questo momento, questa è la sostanza. Ecco, insomma, per tenere insieme il suo partito, e poi insomma ci sono anche delle altre strategie di cui si è parlato. Sappiamo che Napolitano è in scadenza, tra il 15 e il 20 aprile cominceranno le votazioni per il nuovo capo dello Stato. Un'altra cosa appunto che si dice in transatlantico è che Bersani voglia prendere tempo in modo da arrivare a ridosso della scadenza per l'elezione del capo dello Stato e poi far gestire, diciamo, la crisi a un capo dello Stato vicino al PD, quindi avere una mano da un nuovo capo dello Stato. E, insomma, quindi ecco, ci può essere anche questa tattica dilatoria, diciamo, a cui pensare, insomma, anche con un po' di malizia, insomma. Vedremo che cosa succederà. Allora, 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 9 in punto l'hashtag su Twitter. Dico a Raul, che ci scrive: la colpa è sempre il Movimento 5 Stelle, ogni mattina lo stesso messaggio. No, non stiamo dando la colpa al Movimento 5 Stelle, loro fanno la loro battaglia politica come credono, naturalmente, qua non si stanno facendo valutazioni, cioè su questo ci sono persone divise, ci sono persone che hanno votato il Movimento 5 Stelle che dicono questi si prendano un po' di responsabilità, ci sono persone che il Movimento 5 Stelle non l'hanno votato e insomma la pensano come credono. Ora facciamo così, dato che vogliamo anche rimanere sull'attualità, come si diceva, su quelle che sono i fatti di ieri sera, questa mattina siamo riusciti a beccare, come si diceva, il sottosegretario Staffan de Mistura in transito verso Delhi insieme ai due Marò. Dunque, tutti parlano di figuraccia internazionale dell'Italia, gli abbiamo chiesto anche questo, gli abbiamo detto, insomma, tutti parlano di figuraccia internazionale, che cosa dice il governo, gli abbiamo chiesto della condizione dei due Marò, insomma, un'intervistina non male, che adesso vi facciamo ascoltare e che trovate anche sul nostro sito www.radio24.it. Sentiamo. Ciò che è cambiato è che noi abbiamo chiesto agli indiani alcune garanzie. Queste garanzie ci sono state fornite non soltanto verbalmente, ma per iscritto ieri. Sulla base di questa previsione e di questa situazione ci sono state riunioni a livello del governo. Se le garanzie arrivavano, prevaleva, come puoi immaginare, un bene fondamentale per l'Italia, che è quello della parola data. Nel caso in cui non ci fosse stata una garanzia sull'aspetto della pena capitale, che non è marginale, per noi è fondamentale, anche se non sarebbe mai stata applicata ai nostri Marò, ovviamente, perché sappiamo come vogliamo che finisca tutto questo, ma da un punto di vista della nostra Costituzione, da un punto di vista di principio, l'avremmo applicato anche a uno straniero, figuriamoci ai nostri Marò, quella sarebbe stata ed era sufficiente per non mantenere una parola che comunque è importante mantenere. Una volta ricevuto queste garanzie, non soltanto verbali, ma per iscritto, ha prevalso la parola data dalla nazione, dall'ambasciatore a nome del governo e da due Marò. E questo è stato il punto di svolta sulla quale si è deciso con difficoltà, chiaramente difficile per me, le assicuro, accompagnare i nostri Marò in India, avrei voluto poterli accompagnare in Italia, ma per tutti, per le famiglie, per i Marò, ma la parola italiana di un italiano conta e vogliamo che conti. C'è stata una discussione difficile, dura, anche all'interno del governo, da quel che abbiamo capito. Insomma, il presidente Monti, da quel che abbiamo capito, si è anche, insomma, come dire, un po' se l'è presa col ministro. Difatti, io non faccio commenti su questo argomento. Come le avrà visto, sì, lo stesso ministro ha avuto un comportamento altamente professionale, ha difeso questa posizione. Si è certamente adoperato in questi giorni e nell'ultimo mese affinché si trovassero delle formule diplomatiche. L'importante è quello che è la decisione finale collegiale del governo, alla quale ci siamo tutti adeguati e sulle quali noi lavoriamo. Ha prevalso l'interesse di principi, uno di questi, la parola di un italiano, prevale. C'è chi dice: il governo ha fatto una figuraccia, l'avrà visto i giornali o forse avrà sentito, insomma, qualcosa che, insomma, che viene detto in giro. Anche tutti i commenti in queste ore sembrano convergere su questo. In India hanno avuto gli stessi problemi, erano stati accusati di avere fatto degli accordi segreti, che tutto era in qualche maniera ondivago. La realtà è che la diplomazia e i rapporti tra stati su questioni inaudite come questa, non ci sono precedenti, richiedono decisioni e aggiustamenti sulla base di alcuni elementi che vengono o non vengono forniti. In questo caso la posizione non è stata facile, non c'è stato ed è la possibilità di continuamente aggiustare il tiro nello spiegare cosa avveniva, perché queste discussioni avvengono discretamente. Il risultato è quello che abbiamo. I due Marò sono convinti anche loro che questa è una decisione condivisa, la loro parola era importante quanto quella dell'ambasciatore, sanno che l'Italia non li lascerà mai in presenza con loro qui e nei prossimi giorni a Delhi per garantire che certe condizioni che sono state discusse vengano applicate. E il fatto che noi manteniamo a bocce ferme a questo punto, senza un dramma creato che poteva in qualche maniera confondere tutte le acque, soprattutto se a un certo momento abbiamo avuto certe assicurazioni, noi manteniamo la nostra posizione. Arbitrato internazionale, riteniamo che i militari italiani, come quelli indiani, debbono essere giudicati a casa propria e che i nostri militari mantengono una forma e un atteggiamento profondamente dignitoso rispetto a questa questione. Ultimo punto, loro tornano in ambasciata, sono funzionari a questo punto dell'ambasciata, sostengono il nostro consigliere militare e hanno libertà di movimento. Le prossime mosse dipenderanno dalla diplomazia e dall'aspettativa che abbiamo noi, che anche da parte indiana, come siamo stati capaci anche noi di prendere atto di alcune decisioni indiane, si prende atto di quanto importante sia una soluzione diplomatica, giusta, internazionalmente riconosciuta, di un caso mai avvenuto prima. Grazie. Ultima domanda, sottosegretario, se permette, riguarda il supporto internazionale, in particolare dell'Unione Europea. Ritiene che sia mancato, che ci sia stato poco supporto da parte di Bruxelles? Perché questo è stato, insomma, lamentato spesso anche questo dai commentatori, uno scarso intervento da parte dell'Unione Europea su questa vicenda che riguarda appunto un paese membro e quindi rilevante dal punto di vista della politica estera. L'Unione Europea mi pare abbia preso una posizione molto chiara su una questione che diventava, nel caso dell'India, profondamente difficile per loro, e l'avremmo in questo caso mantenuta anche noi come elemento di, diciamo, di pressione, quando hanno fatto capire che stavano per non applicare di fatto l'immunità diplomatica. Su questo punto abbiamo visto una Unione Europea forte. Sulle questioni che ci riguardano in generale, devo dire che da parte dell'Unione Europea ci sono state delle demarche, ma va anche riconosciuto che alla fine una questione del genere va risolta tra due Stati tramite un contesto internazionale che si chiama l'AIA e l'arbitrato internazionale. E su questo mi pare l'abbiano detto anche i nostri alleati europei. Come stanno i due ragazzi, sottosegretario? Lei li conosce, io li conosco molto bene, sono, per quello che mi riguarda, l'orgoglio del migliore comportamento che un militare italiano può avere e un militare in generale. Primo, dignità. Secondo, chiarezza del loro ruolo e del loro comportamento. Tre, adeguarsi a quello che è in fondo anche l'interesse dell'immagine dell'Italia e la loro e della loro forza, che sono i Marò. Un po' addolorati, un po' addolorati lo saranno. Straordinarie, perché hanno dovuto accettare per l'ennesima volta una delusione, perché la delusione non avere i propri cari, ma sono militari. E mi hanno ricordato anche in volo, noi siamo dei militari, noi andiamo avanti e noi andremo avanti. Un po' addolorati lo saranno però, immagino, insomma, per... Lo siamo tutti, siamo tutti esseri umani, lo sono anch'io, mi creda, credo che lo siano anche coloro i quali hanno dovuto prendere questa decisione, ma siamo anche convinti che la forza che verrà, e vedrete quando i nostri militari scenderanno dall'aereo, della loro dignità, della loro posizione, guardando avanti e dicendo noi abbiamo una nostra posizione e siamo pronti a difenderla perché non abbiamo timore di difenderla. Brutali i vostri commenti su Twitter, ci arrivano con l'hashtag 9 in punto, de mistura disgustoso, ci scrive Federico, faccia tosta e arroganza senza pari. Tommaso, mi pare di capire che diplomazia è fare straordinarie figure da cioccolatai facendole passare per scelte strategiche. In effetti non è stata una gran figura la vicenda dei due Marò. Noi ci fermiamo in questa puntata, avrete capito, un po' frammentata, ma anche perché, ripeto, una giornata veramente di transizione. Ci ritroveremo tra un attimo, parleremo di politica, di eventuale altra manovra e naturalmente di Cipro con Giulio Tremonti. A tra poco. Ed eccoci di nuovo, cari ascoltatori. Intanto il ministro degli esteri indiano Salman Khurshid dice che è felice che la questione sia arrivata a una conclusione soddisfacente, come si dice a Roma, te credo che è soddisfacente per gli indiani naturalmente. Giulio Tremonti, buongiorno. Buongiorno. Più volte ministro dell'economia, ora senatore. Con lei però io voglio partire, poi verremo anche alle questioni di Cipro che, come più volte abbiamo ribadito da questi microfoni, riteniamo centrali e troppo sottovalutate dalla politica italiana e dallo stesso governo in questo momento, perché è una questione centrale, perché riguarda, in realtà vi sembra quell'isola, o meglio quel pezzo di isola con 1 milione di abitanti, semi paradiso fiscale e legale che quasi conta nulla in mezzo al Mediterraneo, in realtà è una questione centrale che riguarda tutti proprio per i meccanismi di decisione dell'Unione Europea, la trazione dell'Unione Europea. Di questo parleremo tra un attimo, però prima io la voglio portare su dei dati che sono stati forniti ieri dal governo. Il governo che dice il prodotto interno lordo scenderà nel 2013 dell'1,3%. Notare che a settembre il governo aveva detto che sarebbe sceso dello 0,2%. La modifica è a dir poco sostanziale nelle previsioni. Questo, secondo lei, prefigura la necessità di una manovra subito, appena si formerà il governo? Ma guardi, questo delle previsioni allo 0, l'anno prossimo mi sembra un modo di, come dire, di calcolare, di far vedere le cose un po' strano. Le previsioni le devi fare, però se credi davvero allo 0, io non ci ho mai creduto, ho sempre detto che erano un modo per rappresentare, la legge ti chiede di fare le previsioni, però francamente stare dietro lo 0, quando lo dicevo io dicevano tutti no, l'ortodossia. In realtà, detto questo, l'economia va male e l'ho detto dal gennaio del 2012, va male perché il governo Monti ha esagerato con le tasse. L'ho detto in televisione in gennaio, non ho mai votato un decreto di Monti e in effetti l'eccesso delle tasse o riforme sbagliate come la riforma Fornero ci hanno portato a una situazione in cui l'economia va peggio di come andava o avrebbe potuto andare. Questo ormai si può dire con una qualche sicurezza. Detto questo, se l'economia va male, stringere troppo sui conti non è la via giusta, ecco, onestamente. Io credo che ci siano problemi di bilancio, che ci siano problemi di soldi per gli ammortizzatori sociali, per tante voci che non sono coperte abbastanza, ma che ci sia la forsennata necessità di quadrare i decimali, manco quello, insomma. Detto in italiano. Okay, comunque sì, i soldi, onestamente, sugli ammortizzatori sociali e su tante voci i soldi mancano. Vede, la cosa che mi impressiona è che per 2 anni e mezzo, per 3 anni, si è parlato solo di economia. Per 3 mesi si è parlato di tutto, tranne che di economia. Eppure i problemi della crescita del bilancio pubblico, dell'occupazione ci sono e sono sempre più gravi. Scusi se torno sulla domanda diretta, ci vuole questa manovra o no secondo lei? Ma guardi, bisogna fare il bilancio dello Stato, il bilancio dello Stato triennale va fatto entro giugno sul 2013-14-15. Le faccio un esempio. Entro luglio sale di un punto l'IVA. Sì, lo ricordiamo entro tutti i giorni. No, le dico, mi scusi, la interrompo solo per dire che questa è una cosa che tra l'altro ricordiamo tutti i giorni. Abbiamo messo un countdown per cui ogni giorno alla fine di questa trasmissione abbiamo una voce che ci dice quanti giorni mancano all'aumento dell'IVA, anche per ricordare. E quella è una manovra già in sé, no? Sì, sì. Però già prevista in sostanza, no? Ma sa, se la prevedi sulla gazzetta ufficiale è una cosa, se metti le mani sul portafoglio è un'altra cosa, quindi puoi anche dire che non è una manovra perché è già prevista, ma quando dal 1 luglio devi cacciare fuori i soldi è una manovra. Chiarissimo, poi veniamo a Cipro, però domanda sulla politica, come andrà a finire secondo lei? Vaticinio, professor Tremonti. No, quello è un altro mestiere. Io le dico una cosa che ho scritto da tanto tempo e ci credo. Primo, i grandi problemi non li governi coi piccoli numeri. L'abbiamo visto nel passato, lo vediamo, lo vedremo. Se tu hai grandi problemi nel paese, non li risolvi con piccoli numeri in Parlamento, che magari diventano grandi per la finzione artificiale della legge elettorale che ti dà il premio. Per essere chiari, siccome il 30% degli italiani non ha votato, ha votato bianco o nullo, se tu c'hai, supponiamo il 30, non hai il 30 su 100, hai il 30 su 70, alias c'hai il 21. Se tu hai il 21% reale dei voti, del consenso, hai un piccolo numero ed è difficile con un piccolo numero gestire grandi problemi, anche perché la democrazia non è un giorno, un voto, una legge che ti dà magicamente un premio. La democrazia è un sondaggio continuo, è ogni giorno, quando prendi il caffè, quando prendi il treno. Allora, governare grandi problemi con piccoli numeri è molto difficile. Questo vale per tutti. E quindi? E quindi ci vogliono numeri molto grossi, adeguati ai grossi problemi. Se tu fai come è stato in questi 3 mesi, che si è parlato solo dei problemi della politica e non dei problemi della gente e dell'economia, stai sulla strada sbagliata. Tutte le formule politiche che sono lontane, vede, questo è un problema in un paese in cui il 30% non ha votato, ha votato contro. Un altro 30% su 70 ha votato da una parte, l'altro dalla parte opposta. Altri ancora hanno espresso un voto che non è esattamente di sistema, la vedo un po' complicata. Ecco. Quindi, ma dire una cosa non è volerla o causarla, è constatare la verità. Cioè che si ma andrà... vediamo, speriamo. Vedremo che cosa succederà, però mi sembra di capire, lei dice alla fine finiremo per votare presto, insomma, punto e basta. Ma anche quello, sa, in teoria sì, però mi ricorda quello che va a sbattere, guarda sulla carta geografica, non c'è la montagna e dice non è sbagliata la carta geografica, è sbagliata la montagna. No, cioè ho anche l'impressione che se si torna a votare con questa legge, in queste condizioni, si ritorna a sbattere contro la stessa montagna. Si cambia la carta geografica, ma la realtà è diversa. Effetto Grecia, dunque. Allora, quindi veniamo poi a quest'altra questione che, come diciamo, ci sta molto a cuore. La vicenda di Cipro, come abbiamo detto più volte da questi microfoni, è una questione centrale, nonostante al momento sia sostanzialmente ignorata dalla politica, anche il governo oggettivamente ne ha parlato poco, c'è stata una qualche richiesta del governo che insomma è stato chiesto al governo di riferire in Parlamento, ma insomma al momento naturalmente il Parlamento è in formazione, stanno creando le commissioni, insomma, è naturalmente tutto un po' complesso, come tutto complesso in Italia, a dire il vero poi alla fine. La questione di Cipro è una questione di sistema, Tremonti? Ma Cipro è un po' come è stata l'Islanda e come è stata l'Irlanda, e cioè dire un paese piccolo che fa da portaerei per banche, per finanza gigantesca. Non c'è un rapporto tra l'entità economica di Cipro, quanto è grande, quanti sono i cittadini e la dimensione spropositata della finanza. È già successo quando è saltata l'Islanda o l'Irlanda. Sull'Islanda i soldi li hanno messi i paesi del nord che usavano l'Islanda come da potere. Sull'Irlanda le abbiamo dovute mettere noi, tutti gli europei, l'Italia che non era esposta per niente deve metterci dentro molto, e adesso Cipro è una portaerei sulla quale sono andate a posizionarsi una quantità enorme di banche che investivano in titoli tossici e sono saltate per queste, e tossici numero uno erano i titoli greci. Saltata la Grecia, sono saltate anche le banche che da Cipro avevano investito sulla Grecia. Titoli che vendevano molto, l'illusione che non saltava niente, e invece salta un altro paese. E dopo un po' verrà, per cause diverse, più simile alla Spagna, verrà la Slovenia. Quindi, e quello che impressiona è come dire, come viene gestita dall'Europa una realtà di questo tipo. E quello che ti viene in mente è, se Cipro è piccola ma produce un disastro così grande, allora vuol dire che l'Europa non è capace di governarsi e di governare, perché se viene fuori tutto questo caos per un paese piccolo, figurarsi per un paese un po' più grande. E l'Europa lì è mancata su 2 cose. Primo, la BCE ha ignorato totalmente per tanti anni e continua a ignorare la finanza. Si è sempre occupata dei bilanci pubblici e non si è mai occupata a sufficienza dei bilanci privati della finanza. E questa è la ragione per cui sono saltate tutte le banche del nord, è saltata l'Irlanda. Problema di statuto o problema di Draghi? No, ma ho detto da molti anni, in realtà non si occupano degli squilibri della finanza, hanno sempre concentrato il loro sindacato sugli squilibri della finanza pubblica e l'analisi era il debito, il deficit, e non guardavano quello che avrebbero dovuto guardare, quello che devono guardare, che riguarda la stabilità di sistema della finanza. Cioè che Cipro fosse un caos lo sapevano tutti. Poi ogni caso è diverso. L'Islanda era un caso minimo con banche enormi, Cipro è un caso più grosso, ma dietro c'è la malavita del Mediterraneo e del nord dei Balcani e della Russia. Quindi ogni caso è diverso, ma che Cipro fosse un disastro lo sapevano tutti. Che la Slovenia sia un caso tipo Spagna lo sanno tutti. E poi quando esplode il caso, qual è la geniale soluzione votata dai ministri europei? Tassare i depositi, che non è una tassa, ma un fallimento della banca. Perché sa, un conto è Cipro, fa la guerra alla Turchia, fa un buco di bilancio e deve aumentare le tasse per tappare il buco di bilancio. Qui è diverso, qui hai una banca, depositi i tuoi soldi, e depositi 100 e ti dicono, sai che ti dico, io non ti do più indietro 100, ti do indietro 85. Sì. Quindi è un default della banca, neanche dello Stato. No, torno a dire, uno che vota, e i ministri europei hanno votato, hanno deliberato all'alba di quel giorno di mandare in default le banche, passando nel modo peggiore, cioè passando attraverso un prelievo, una confisca dei depositi, toccando la base di tutte le monete, che è la fiducia, mi sembra è stata una mossa sciagurata. Ecco. Grazie Giulio Tremonti. E l'ha votato tutti. Grazie Giulio. Sì, lei dice l'ha votato anche l'Italia, dice lei. Penso di sì, bisogna vedere le carte, ma credo fosse unanime la delibera di tassare i depositi. Vedremo, ci informeremo anche su questo. Grazie Giulio Tremonti, buona giornata. La viabilità, ci troviamo tra un attimo. Brevissimamente sentiamo due ascoltatori e poi chiudiamo con Lina Palmerini. Sentiamo Ugo da Livorno, mi raccomando, breve, prego. Ugo, ci sente? È talmente breve che non ci sente. Cleto dalla provincia di Teramo, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Io brevissimamente volevo soltanto sentire da lei perché se tutti gli italiani, e lei tra l'altro anche intervistato in questi giorni anche molte personalità che la pensano in un certo modo e hanno la soluzione, cioè gli italiani sanno cosa vogliono, perché i politici non lo fanno? Non lo so, lei lo sa, lei si è dato una risposta? Purtroppo sì. Però la risposta è che non vogliono perdere nessun tipo di potere, ma se noi sappiamo benissimo che abbiamo sentito in questi giorni tantissimi esponenti che la pensano come pensa la stragrande maggioranza degli italiani in vari, dei vari schieramenti. Perché ci devono fare? Se loro sono lì per noi, perché devono fare come dicono loro e non come diciamo noi? È uno sfogo. Capisco. Questa me è la cosa... permette perché sono vice sindaco del PD e sono anche un piccolo imprenditore che questa mattina sta facendo i conti con vice sindaco di un piccolo comune, immagino, vice sindaco. Ma piccolo comune della provincia di Teramo, se mi permette voglio fare anche pubblicità, è Pineto, è sulla costa teramana, una bellissima località. Ok, occasione di marketing territoriale per il vice sindaco. Il vice sindaco di Pineto. Sentiamo anche Alessandro che ci chiama da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Dopo aver sentito il signor De Mistura è una cosa che sono parole veramente diciamo così rivoltanti, perché si aggrappa letteralmente sui vetri difendendo un qualcosa di dignità, quando invece la dignità l'abbiamo completamente perso, proprio completamente. Abbiamo dimostrato al primo accenno di risposta dell'India di calare immediatamente le braghe. Vorrei sottolineare che da quando hanno preso la decisione di tenere qui i Marò ad adesso non è cambiato niente. Il parere scritto del governo indiano non vale niente. Se la Corte di Cassazione da 30 anni di quel parere non ce ne facciamo niente. È una cosa veramente disgustosa, non ci sono altre parole. Grazie, grazie. Ricordo a questo proposito una presa di posizione del ministro degli esteri Giulio Terzi di esattamente un paio di giorni fa, nel quale diceva: la nostra posizione è molto solida. Evidentemente non era così solida, oppure c'è talmente tanto di non detto che sul quale a un certo punto andrà fatta chiarezza anche in Parlamento, anche in Parlamento davvero. Chiudiamo con Lina Palmerini, sempre del Sole 24 Ore, che abbiamo recuperato adesso, e per tornare insomma a quelle che sono le questioni politiche di queste ore, insomma, no? L'eventuale incarico a Bersani. Ora, io, Lina, vedendo, leggendo le vostre analisi, quello che scrivete sui giornali, ma anche in retroscena, gli editoriali, a me sembra che quello che sembrava far sentire nell'aria Tremonti, no? Insomma, di un voto abbastanza presto, alla fine mi sembra tutto sommato l'ipotesi più probabile, insomma, no? Sì, anche perché, ti ripeto, se l'incarico, come sembra, verrà dato a Bersani o passa attraverso un accordo con il PDL oppure non ha i voti, perché Grillo continua a dirgli di no. Allora, passare per un voto con il PDL da una parte mette in difficoltà il PD, dall'altra vuol dire far partecipare il PDL, quindi Silvio Berlusconi, alle trattative per il Quirinale. Allora, o si supera si scioglie questo nodo, sicuramente si va a elezioni anticipate, probabilmente anche in uno scenario di grande coalizione si andrà a elezioni anticipate, solo con una piccola differenza, che riescono a fare le riforme, inclusa la legge elettorale, perché se ci troviamo in questa situazione, ecco, l'ascoltatore prima di Pineto, il vice sindaco, non è soltanto colpa della classe politica, è prevalentemente colpa di una legge elettorale che consegna l'instabilità, perché noi abbiamo tre blocchi, sono tre blocchi contrapposti, non c'è possibilità di fare un governo di coalizione. Dunque, se si torna alle urne con questa legge elettorale, probabilmente si tornerà ad avere una situazione di stallo. Per cui le alternative sono queste: o si cerca di fare un governo istituzionale di larghe coalizioni in cui si riforma la legge elettorale, una legge elettorale che dia stabilità al sistema, oppure si andrà sì alle urne subito, ma con la legge elettorale, con gli stessi. E ci ritroveremo di nuovo nello stallo. Grazie Lina Palmerini, Carmelo Lauricella in regia, Franco Piantanini in assistenza, Alessandro Marco Tulli in redazione. A tutti voi per l'ascolto, buona giornata. Ricordati! Mancano 100 giorni all'aumento dell'IVA. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Radio 24. La passione si sente.